Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Gheddafi a Roma, città africana, mai si poteva definire meglio la capitale d'Italia di come ha fatto Berlusconi, il quale è stato anche, diciamo, protagonista di primo piano di questa grande accoglienza alla quale nessuno si è sottratto, tranne il Papa, tra i grandi abitanti di Roma, intendo Quirinale, Palazzo Chigi, eccetera, eccetera, eccetera, Senato. E, insomma, Roma, città molto africana. Bisogna essere cinici perché la storia è piena di colori. Il colore fondamentale è il rosso, il colore del sangue. Bisogna parlarne senza sciocca indignazione morale, però bisogna sapere quello che è successo. Roma pende dalle labbra di Gheddafi da 3 giorni. Tra poche ore si riuniranno nell'auditorium della Confindustria, pensate un po', circa 1000 donne, che portate lì dalla ministra per la pari opportunità Mara Carfagna e da altre autorità varie dello Stato e centri della società civile, andranno così a sentire una lezione di Gheddafi sulla condizione femminile. Gheddafi, insomma, è naturalmente il capo di un paese al quale abbiamo fatto molto male, al popolo libico abbiamo fatto molto male, siamo stati potenza coloniale, abbiamo usato i gas, abbiamo trucidato i libici che hanno organizzato la loro resistenza. Dopodiché, naturalmente, insomma, tutto questo avveniva con delle dinastie di re del deserto. Dal 69, record di longevità assoluto, o comunque record di longevità notevole, Gheddafi è lì, prima era capitano, poi era colonnello, e poi è stato per lungo tempo un capo di Stato isolato dalla comunità internazionale, bandito dal rapporto e dall'interlocuzione con chiunque, ma gli stessi americani che Gheddafi ha definito come Bin Laden, ha detto sono come Bin Laden, li ha paragonati a Bin Laden, cosa particolarmente offensiva visto che sono americani i 3000 morti delle due torri nell'attentato di Bin Laden. Gli stessi americani lo hanno riabilitato, diciamo così. Cioè hanno detto: tu molli il programma nucleare, le armi di distruzione di massa, tu fai alcuni passi in direzione di una reintegrazione tua nella comunità occidentale, risarcisci le vittime delle stragi che hai dato mandato di fare nel corso del tempo, e noi, vabbè, ti garantiamo, insomma, che non faremo più sforzi inenarrabili per rovesciarti, non ti isoleremo più, non sarai più oggetto di sanzioni, che è stata una cosa politicamente rilevante avvenuta dopo la guerra in Iraq. Gli americani hanno fatto questo, però pendere dalle labbra di Gheddafi, cioè farne una specie di pop star, di grande icona, diciamo, di questa incipiente estate romana, per cui, insomma, lui gira come la fa un po' da padrone, ecco, con un cerimoniale d'accoglienza. Qualcuno deve avere sonnecchiato alla Farnesina, un protocollo d'accoglienza che, insomma, non si dedica neanche a Obama, e lui che dall'aereo dice: guardate che se non c'è Berlusconi all'aeroporto io torno indietro. Insomma, ha spadroneggiato, diciamo, ecco, pendevamo dalle labbra di Gheddafi. E, insomma, questo non lo so, ecco, Gheddafi si presenta come Sergeant Peppers, come con quella divisa che sembra la copertina del vecchio disco dei Beatles. E devo dire, è surreale, astratto, sembra un po' quel grande campione Ubu Roi dell'avanguardia del primo Novecento di Alfred Jarry, il pantagruelico e mangione campione d'esempio di un potere surreale. Però, insomma, diciamo che il 21 dicembre dell'88 una bomba, lo ricorda Meotti sul Foglio di oggi, firmata Gheddafi, esplose a bordo di un jumbo della Pan American. L'aereo diretto a New York stava sorvolando la cittadina scozzese di Lockerbie. Morirono 270 persone. Ricorderemo tutti che nell'85, per seguire il calendario, all'aeroporto di Fiumicino, contro la compagnia israeliana El Al, ci fu un attentato mandatario Gheddafi con 13 morti. Insomma, è un tipo strano che disse: quando prese il potere faremo come Sansone, distruggeremo il tempio con tutti i suoi occupanti. E quando nel 72, sempre per andare a ritroso nel tempo, vennero spietatamente uccisi gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco, le salme dei martiri, cioè di coloro che li avevano ammazzati, furono accolte da Gheddafi e salutate con tutti gli onori militari come salme di eroi. Insomma, il personaggio è quantomeno, come si dice con l'eufemismo tipico del giornalismo, controverso. E ne discutiamo oggi, tra politica e osservazioni di costume, con grande libertà, una punta, una vena, come dire, di amarezza, non per il fatto che lo abbiamo accolto, dovevamo accoglierlo, era invitato, fa parte, insomma, è stato accolto a Parigi, è andato lì, anche lì ha piazzato la sua tenda, inutile fare che sembra che siamo gli unici, no, non siamo gli unici, però forse un piccolo eccesso, diciamo, di carineria nei suoi confronti, ma sarà forse per il complesso di colpa coloniale, chi lo sa. Comunque ne discutiamo con Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, Marcello Veneziani, scrittore e giornalista, Stefano Di Michele, giornalista del Foglio, Stefania Craxi, sottosegretaria agli esteri, e Luisa Todini, imprenditrice notissima, celebre, e che sta per andare appunto a parlare con Gheddafi della condizione della donna nel mondo, il che naturalmente è molto surreale, ma Luisa Todini ci spiegherà perché ha accettato l'invito e che cosa pensa le sarà detto e che cosa pensa di dire, se per caso avrà la possibilità di parlare o avesse la possibilità di parlare. Bene, Luisa Todini, lei è una donna emancipata, un'imprenditrice, una persona, diciamo, totalmente autonoma, indipendente. Va a parlare da Gheddafi, lì all'auditorium della Confindustria. Che vi direte? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno. E grazie per avermi ospitata. Io interverrò quest'oggi, dopo l'incontro di Confindustria, in cui interviene la Presidente Marcegaglia, c'è appunto questo incontro all'auditorium in cui lui ha chiesto di incontrare le donne per discutere di quella che è la posizione, la situazione femminile in Africa, perché ricordiamoci che lui è un leader profondamente africano, noi parliamo di Islam, di mondo arabo, ma lui è fondamentalmente, la Libia è fondamentalmente un popolo africano, e ci saranno circa 1000 donne ad ascoltarlo, imprenditrici, politiche, casalinghe, come è stato scritto, per quindi donne anche curiose soltanto di conoscerlo. Gli è stato chiesto di intervenire con un cappello imprenditoriale, quindi di esponente di società civile, ma imprenditoriale, anche perché sarà divertente vedere anche il cappello che indossa lui. Sì, questo non c'è dubbio. Vede, io ho ascoltato la premessa che lei ha fatto dando delle considerazioni iniziali, però io ho voluto sottolineare l'africanità perché ci sono dei simbolismi che lui porta con sé quando anche va in giro per il mondo in queste presentazioni ufficiali, incontri ufficiali, che a noi sfuggono, perché comunque l'Africa ha dei simbolismi che noi sfuggono come sfugge qualsiasi altro simbolismo di altro luogo al mondo, e noi abbiamo dei simbolismi che forse sfuggono alla cultura africana. Quindi da questo punto di vista possiamo forse sì sorridere, può esserci anche un lato... No, voglio dire, quando viene Mandela con i suoi colori tutti capiscono che è arrivato un uomo buono, quando viene Gheddafi tutti capiscono che è arrivato un tipino un po' crudele, business is business naturalmente, non voglio polemizzare, no, ma insomma prego. Fa parte, come si suol dire, del personaggio, no? Della storia di un personaggio che comunque io... Tanto mi perdoni, faccio parte di una generazione nata negli anni 60 che tante cose le ha sentite raccontare e che oggi guarda e deve guardare al presente e al futuro, anche con un cappello imprenditoriale di un'azienda come la nostra, per esempio, che lavora in tanti... Ridai col cappello, non mi dica cappello, se no mi scateno sui cappelli di Gheddafi. Mi scusi, togliamo il cappello, quindi con un'ottica di un'azienda che lavora nel Maghreb, non ancora in Libia, però per esempio abbiamo molta esperienza in Algeria e in Tunisia, quindi conosciamo quello che è quella parte dell'Africa. In ogni caso, per farla breve, mi scusi altrimenti sono troppo lunga, io rappresenterò anche il Comitato Leonardo, che è un comitato che rappresenta dagli anni 90 l'eccellenza del Italy italiano, poiché sono stati stanziati dal governo libico 20 miliardi di dirham, che sono circa 13 miliardi di euro, per aprire delle zone franche in gran parte destinate ad accogliere aziende italiane. A me sembra un'opportunità straordinaria, non c'è dubbio, straordinaria. Le viene subito in aiuto Stefano da Roma. Stefano. Sì, buongiorno, un saluto a lei. Buongiorno. Gli ascoltatori e partecipanti. Sì, insomma, il discorso è un discorso di realpolitik, non vedo perché ci si debba scandalizzare più di tanto. È così, cioè che poi lei abbia sottolineato giustamente che forse con Gheddafi è stata usata qualche carineria di troppo, magari è vero, cioè io mi sarei evitato delle provocazioni come quella dell'università, insomma, me le sarei evitate sinceramente. Ora però lei dice inutile scandalizzarsi, ha ragione Stefano. Sentiamo sì. Stefania Craxi che è sottosegretario agli esteri, è diciamo epigono di una grande dinastia politica, i Craxi, che con la politica araba, i rapporti con quel mondo hanno come dire fatto storia. Stefania, volevo sapere se secondo lei c'è stato qualche smarginamento protocollare, qualche eccesso, no, dico nel contrattare prima, perché naturalmente se tu prima dici nei rapporti con uno stato estero ti accogliamo all'aeroporto, poi dopo non gli puoi dare il bidone come fa Berlusconi, c'è il torcicollo, quello dice no, torcicollo niente, pigliati un'aspirina e vieni all'aeroporto, se no io torno a Tripoli. Prego. Io penso, come ha tratteggiato lei prima, che è una visita che ha molti chiari e qualche scuro. I chiari sono che è un indubbio trionfo politico di Berlusconi. L'accordo con la Libia non è un semplice accordo politico-commerciale, è un accordo che investe la zona emotiva e sulla base di un'amicizia fra due leader sancisce la cancellazione del passato e un nuovo rapporto di amicizia fra i due popoli. Ed è un rapporto e una nuova situazione che è nell'interesse del nostro paese. Interesse economico, sul piano energetico e anche perché molte aziende beneficeranno dei finanziamenti che sono stati promessi alla Libia nell'accordo. Un interesse politico perché ci troviamo finalmente la Libia a fianco nella lotta contro l'immigrazione clandestina. Un interesse geopolitico perché è inutile dire che Gheddafi conta nel mondo arabo ed ora in poi noi abbiamo un alleato influente sullo scacchiere mediterraneo. Dopodiché penso anche che sia stata un'occasione persa da parte del leader libico e anche della politica italiana, perché si poteva parlare rispetto alla storia e al linguaggio della verità. Il linguaggio della verità è che ci sono responsabilità dell'Italia, del mondo occidentale verso la Libia, ma ci sono, come lei ha ricordato, molte responsabilità di Gheddafi rispetto non solo all'Italia, ricordiamoci anche dei missili lanciati a Lampedusa, sì, ma anche rispetto al mondo occidentale. Sicuramente da questo punto di vista, al di là del protocollo e, come dire, di un eccesso di folklore che fanno parte del personaggio, credo che questo sia sicuramente faccia parte del chiaroscuro che questa visita... Mi fa piacere il tono disinibito e franco col quale lei sta parlando, più Craxi che il sottosegretario, diciamo, non nel senso che lei abbia detto niente di incompatibile, ma insomma fa un discorso politico e non soltanto diplomatico. Stefano Silvestri, che ne ricaveremo da questa visita? Non lo so, bisognerà vedere. Comunque certamente questo, se l'Italia ha l'intenzione, come io mi auguro, come l'onorevole Stefania Craxi dice più volte, di fare una politica mediterranea che abbia una sostanza e che abbia anche una capacità, per esempio, di rilanciare quelle politiche sia bilaterali che europee che sembrano un po' in questo momento dormienti in seguito alla semiasfissia dell'iniziativa Sarkozy nel Mediterraneo, in questo momento sembra dimenticata. Beh, in questo caso effettivamente il colonnello può essere utile. Naturalmente ha tutti i limiti che ha quest'uomo, cioè è estremamente importante non averlo contro, ma a volte è quasi inutile averlo a favore, nel senso che poi non fa nulla seriamente per aiutarti. Ho capito, insomma, la attendibilità, la credibilità è a un grado inferiore alla media. Grazie Silvestri. Stefano Di Michele, giornalista del Foglio, oggi racconta la surrealtà di queste giornate romane, no? Per esempio ci sono gli studenti, lo trovo una cosa straordinaria, gli studenti che quelli che hanno lottato contro il Papa in nome di Galileo, eccetera, che poi il Papa non hanno fatto parlare, mentre Gheddafi, va bene, scontri con la polizia, secchiate di vernice, non avevano quegli studenti lì, quell'onda della sapienza, quella della sapienza, sono un po' così ideologicamente radicalizzati. Anche loro pensano che gli Stati Uniti sono come Bin Laden, no? Beh, d'altra parte l'ha detto pure un ex ambasciatore inglese a Roma. È una frase stupidissima, ma che molti ripetono. L'ha detto Gheddafi al Senato e loro gli tiravano secchiate di vernice rossa. È strana la situazione. E perché si sintonizzano sempre un po' in ritardo? Non erano state, come dire, informati. Ma a proposito di surreale, la lezione all'università di Gheddafi è un capolavoro di nonsense, di surrealità, sul Corriere della Sera oggi, la cronaca che c'è sul Corriere, la democrazia che è il popolo che siede sulle sedie. Sulle sedie, sì. E sì, quindi sì. Democrazia è il popolo e sedie, però se sono gli altri che decidono, sono 10, allora è 10crazia, non è democrazia. È una cosa... Cioè, voglio dire, sì, è scritto da uno scrittore satirico. Un teatro dell'assurdo va bene, però Gheddafi avrà messo, c'è il cappello imprenditoriale nella Libia, c'è il dato emotivo, è un grande leader potente. Però in quale altra situazione un personaggio che fa un discorso del genere, un dialogo del genere, viene omaggiato viene, dal rettore. Viene omaggiato, preso come il rettore che si è stupito anche per le amazzoni e le vergini, eh? Ha fatto, messo all'università queste sue amazzoni, queste sue vergini, che danno l'idea di venire da un altro book rispetto a quelli, sì, a quelli delle veline, sono di taglia un po' più sostanziosa, dovendo lottare. Lei le ha definite buzzicone, che non si dovrebbe mai fare con delle signore. Ma beh, ma c'è anche Alberto Sordi con, sì, la moglie, ha un dato affettivo, è buzzicona, è come sei? Sei buzzicona, è un dato affettivo, quindi... E quindi il rettore, cioè, c'erano tutti i manifesti che ha messo il comune di Roma. Sì. C'è un Gheddafi con degli occhiali dal Dolce Gabbana, non so, una cosa strana, un colorito strano. E sembrano una cosa pop ritoccata, una cosa Andy Warhol. C'è, sì, stato... Bisogna dire che è il trionfo di Michael Jackson. Per, sì, chi tra i nostri ascoltatori conosce un po' la storia, la fisionomia nel corso del tempo di questo grande epigono della famiglia dei Jackson 5, che è diventato il cantante più pagato, più ricco, più contestato, più assurdo, processato. Beh, insomma... Michael Jackson, perché a Gheddafi gli cambia la faccia, sì, ogni tanto sembra negro, ogni tanto sembra bianco. Ha quei capelli che pendono. Con i capelli che pendono, tutti neri, strani. È sceso dalla scaletta dell'aeroporto, credo anche Berlusconi, che è abituato, diciamo, a veder scendere di tutto verso Villa Certosa, sarà stato un po' impressionato. Ma la cosa bellissima era il Quirinale, il presidente napolitano, che è molto compito, molto, sì, istituzionale, dava l'idea di non sapere dove posare lo sguardo, come guardare, leggermente in difficoltà. Veneziani, anche lei ha questa impressione di follia o la buttiamo sul serio? Sì, anch'io ho fatto oggi un ritratto grottesco di Gheddafi, sì, sul visto. Proprio perché appunto mi sembra surreale e grottesca questa sua visita, soprattutto l'accoglienza che ha avuto. Naturalmente si tratta di separare, come dire, l'importanza strategica, politica, diplomatica, economica del rapporto con la Libia dall'enfasi, l'importanza istituzionale che è stata data a questa figura, che non ha nulla di solenne e molto di caricaturale. Oltretutto è venuto qui a rievocare il colonialismo, che è una pagina infame di tutto l'Occidente, e nell'ordine dei colonialismi noi siamo stati più tardivi e forse i meno cruenti, pur avendo pagine infami da farci perdonare. Sì, i gas erano tardivi, appunto, ma erano gas. Lo stesso Gheddafi dopo ha tentato di ripristinare una fabbrica di armi chimiche a Rabta, e diciamo che Gheddafi è stato l'erede del peggior volto del colonialismo, gli stivaloni, il militarismo, la prepotenza, i gas nervini e così via. E, insomma, credo che non abbia i titoli per poter venire da noi così a parlare in questi termini. Quindi io credo che un punto sia attivare i rapporti commerciali, mantenere i rapporti diplomatici, è importante dal punto di vista appunto del rapporto con gli immigrati, dal mutato rapporto con l'Occidente e con gli Stati Uniti, è importante che ci sia questo contatto con Gheddafi, però si possono evitare in effetti queste cadute e questa importanza data a un imperatore che in effetti è imperatore del nulla, insomma un guappo e cartone, come dicono a Napoli. Niente cede come l'eccesso. Eccoci qua con l'elefante che parla di Gheddafi insieme con i suoi graditissimi e simpaticissimi ospiti. 800 24 00 24. Omar da Milano. Sì, pronto, buongiorno a lei e al suo interlocutore. Io stamattina non avevo intenzione di intervenire, solo che mi ha scaldato un po' l'anima la signora, la signorina Craxi, con tutto il rispetto, quanto ha messo in mezzo anche i popoli. Io non credo che queste rappresentanti, queste dei nostri popoli ci rappresentano o ci pensano proprio a noi nei loro accordi. Sono degli strumenti che quanto fanno comodi alle vostre politiche, magari le premiati sono bravi, sono gli invitati, poi io non ho niente contro averli invitati, ma solo che mi fa scaldare l'anima quanto ci giocate sui nostri sentimenti, sui la storia del popolo, ho capito. Lei dice non è vero che lui è il rappresentante di un popolo col quale abbiamo fatto pace. Sentiamo Stefania Craxi che le risponde, naturalmente. Stefania? Ma io credo che è indubbio che questo accordo sancisca anche un'amicizia fra i nostri popoli. Da oggi la Libia è aperta agli italiani, studenti, turisti, imprenditori che siano, come non è mai stato negli anni passati, e questo che non può che rafforzare i legami fra i nostri popoli. Dopodiché, se il signore ritiene che Gheddafi non rappresenta il suo popolo, non è un argomento su cui il governo italiano può intervenire. Paolo da Vicenza. Dottor Ferrara, premessi i dovuti complimenti per la sua conduzione, io volevo sì significare il mio rammarico, seppure lei già abbia anticipato un po' il mio intervento, relativamente ai troppi onori conferiti a una persona che secondo me, per usare un eufemismo, è un dittatore, quindi voglio dire molta ecco, leggerezza in questi onori. Questo è un punto importante, perché la Bonino ha detto anche lei, dice, ma questo è un dittatore, però la Bonino va in Cina, è giusto, no? Col governo. Sì, no, che la Bonino vada in Cina, chiaramente. Cioè, i dittatori, se non si ricevono, Di Michele, se non si ricevono più i dittatori, chi si riceve? Ah, c'è poco da fare, resta poco da fare, perché poi la maggior parte... anche appunto degli interessi sono in quei paesi o decidi di chiudere verso tutti quei paesi, però è un po' problematico, poi non c'è più niente da il mangiare, dittatore non piace detto. Ma il dittatore serve a volte, appunto. Non so, credo che Silvestri possa seriamente, ma non seriosamente, come nel suo stile, essendo lui un esperto e un grande osservatore della politica internazionale, dirci una parola un pochino più rigorosa su questa questione che ci portiamo sempre appresso. E cioè, va bene, adesso che Gheddafi è spettacolare, appunto pantagruelico, un po' folle, pop, definiamolo come vogliamo, ma dittatori che passano da Roma e italiani che devono passare per le capitali delle dittature, ce ne sono tanti. Com'è questa storia, questo eterno conflitto tra il realismo per cui devi parlare con tutti, la speranza di un cambiamento che spesso può venire proprio dal fatto che tu ti apri a paesi autoritari? C'è chi pensa per esempio che togliere l'embargo a Cuba vuol dire superare il castrismo e riportare la democrazia a Cuba, e invece diciamo l'idealismo così un po' ostinato di chi dice no, bisogna isolarli, bisogna espellerli dalla comunità internazionale. Ma è sempre stato il problema, diciamo che noi ci siamo, nella tradizione della politica estera anche europea e negli ultimi tempi, noi abbiamo detto che non dovevamo fare una politica estera troppo ideologica, né nel senso della democrazia, né nel senso dell'antidemocrazia, né nel senso, in realtà è stato criticato per esempio Bush proprio perché faceva una politica troppo ideologica, anche se alcuni potevano dire troppo ideologica ma non del tutto coerente, ma non fa nulla, era troppo ideologica in realtà, voleva imporre la democrazia sia pure con le armi, e questa è stata una critica forte da parte europea. E adesso abbiamo la situazione opposta, noi non possiamo non avere rapporto con le dittature evidentemente, e non ce lo chiedono neanche gli oppositori della dittatura, i quali anzi ci chiedono di avere rapporti con i loro paesi. Chi punta adesso per esempio una liberalizzazione in Iran sostiene che per esempio un indurimento delle sanzioni che noi decidessimo adesso, appena prima o oggi stesso mentre votano gli iraniani, non farebbe che favorire Ahmadinejad, cioè favorire la linea più dura e più antidemocratica. Senta, Maurizio Molinari sulla stampa di oggi dice che insomma da quello che è riuscito a origliare, diciamo così, nel senso buono, nobile, a Washington, pare che gli americani abbiano aggiornato l'agenda dell'incontro del 15 giugno con Berlusconi. Perché? Perché già c'era questa questione un po', insomma, irrisolta dei rapporti di Berlusconi con Putin, questa ambizione politica di Berlusconi come capo del governo italiano di fare dell'Italia il ponte, e allora la questione della Georgia, eccetera. Adesso questa storia di un Gheddafi che va al Senato, sia pure non nell'aula, per carità di Dio quella l'abbia evitata, ma nella sala Zuccari, che è una sala nobile, e dice che gli americani sono come Bin Laden, pare non gli sia tanto piaciuta. Ecco, non vorrei che... Sì, può essere. Secondo... può essere? Può danneggiare. Diciamo che Obama non ha dimenticato l'appoggio che Berlusconi ha dato a George Bush durante la campagna elettorale, tanto per cominciare. E direi che si è più legato al dito quello che il resto, poi il resto è in larga parte gestibile a mio avviso, ma gli americani in qualche maniera io credo questa amministrazione volesse marcare il punto nei confronti di Berlusconi. Roberto da Roma, grazie. Credo che lei ci debba lasciare, Stefano Silvestri, come ha fatto anche Luisa Todin, la ringrazio molto. Roberto da Roma. Sì, pronto? Sì, eccomi. Buongiorno. No, volevo soltanto sottolineare per un americano come me, un italiano che ama molto quel sistema là, Lei è americano come me, come Alberto Sordi, come lei anche, siamo a Roma, certo, sì, certo, come certo. Alberto Sordi, siamo a Roma, sì, sì, sogniamo sì, l'America. Allora, sì, dica, siamo... dica. No, la questione è questa, come in realtà la caduta del muro di Berlino poi ha cambiato il mondo, nel senso che poi noi il nostro paese ha appunto rapporti privilegiati commerciali con paesi come con i rapporti con Putin e con Gheddafi, che insomma tutti i popoli ricordiamo insomma la rivoluzione con cui Gheddafi, che certo. Si parlava di socialismo anche in quel paese là, nella Libia, no? Certo. E guarda caso è un presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi che è un baluardo in Italia dell'anticomunismo, ecco. E, ecco, volevo soltanto sottolineare questa cosa simpatica. E poi vi faccio aggiungere una nota di colore. Io sono un tifoso di calcio della Roma. A me preoccupa molto preoccupano molto queste notizie che vedono l'ipotesi di Gheddafi che possa entrare nel capitale azionario della Roma, perché è il personaggio un po' pericoloso, no, il termine è sbagliato, è un po' sulle righe, ecco, come un pochino sopra le righe, un filino sopra le righe. Sì. Angelo da Bergamo, grazie Roberto. Buona giornata, grazie Giuliano che mi hai chiamato. Diciamo i tuoi collaboratori, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, ai tempi, bene, quando politica era politica, non adesso. Bene, bene. Allora, però vedi, Gheddafi è una persona che bisogna dargli il permesso che si sta, è una persona che si deve redimersi. Lui avrà fatto degli sbagli, però a me l'impressione che mi dà è che ci vuole convertire a noi, altro che redimersi lui. Sì, sì, ma però quando tu hai parlato di quei famosi missili che sono arrivati a Lampedusa, ma anche a casa sua sono arrivati i missili e non le abbiamo detto questo. Sì, certo, non è che certo. Mi sembra... gli americani hanno bombardato duro quando, ecco, quando non lui... mi sembra che lui abbia detto una cosa magari pesantina, sì, però come Bin Laden non è, ha fatto il pesantino, però sono andati in casa sua a bombardare. Perciò stiamo anche lì corretti nel dire è una persona. Beh, diciamo che gli americani volevano limitare, diciamo, la sua espansività terroristica mondiale, ecco, bombardandolo, diciamo, poi magari invece hanno sbagliato, per carità, non voglio alle nostre imprese. Comunque Angelo, va bene, siamo abbastanza d'accordo su questo. Stefania Craxi, mi sembra che gli italiani siano realisti, no? Vogliono vederlo redento e vogliono che gli si dia la possibilità di redimersi, poi dicono ma che ci strappiamo le vesti. Ma io penso che, come dire, il punto non è il dialogo con i dittatori o non il dialogo. In un mondo globalizzato il dialogo è l'unica alternativa alla forza. Il punto è che il dialogo deve essere improntato alla chiarezza, quindi il dialogo deve essere franco, bisogna usare le parole della chiarezza con questi personaggi. Gheddafi si è presentato nel nostro paese nel suo, non rinunciando alla sua dignità di capo di un paese ex coloniale, la tenda Villa Panfili, la divisa sfavillante d'oro, soprattutto la fotografia appuntata. Beh, quello è stato un colpo eccezionale, devo dire. Presentarsi con la fotografia, con una medaglia del capo, ecco, della resistenza. Più che una catena. Provocazione, mi è sembrata un'utile carta d'identità a sì. Cui la politica avrebbe dovuto rispondere, che quel crimine fascista fu orribile come tutte le atrocità della guerra, però Gheddafi non deve dimenticare due cose. Primo, che il colonialismo italiano fu ben diverso da quello portoghese, spagnolo, olandese e britannico, che oggi non troverebbe nemmeno un italiano con nostalgie coloniali nel nostro paese, e anche questo fosse gli andanzi. Mi piace il nazionalismo dentro. Storico di una Craxi. Veneziani, lei cosa ne pensa? Si intende con Stefania Craxi quando parla così? Immagino. Sì, sì, no, sono d'accordo in linea di massima. Sull'idea di... come anche dire, il padre le piaceva quando... Come sarà? No, certo. Sono anzi convinto che poi Bettino portò non Arafat, ma certo. Disse Arafat era come Mazzini, lo disse alla camera, me lo ricordo ancora, stavo nella tribuna. Fu un paragone ardito, però qualche fondamento lo aveva, insomma, e penso che anzi l'ultima traccia di politica estera, diciamo, rigorosa del nostro paese fu proprio quella che risale all'epoca di Bettino Craxi. Ma sulla fotografia che Gheddafi ha fatto mettere sul suo petto, beh, voglio dire, se si crea un precedente, capi di Stato, non so, di Israele, della Germania, del Giappone, dovrebbero andare in giro con gli album fotografici. Beh, Napolitano si doveva mettere la fotografia della strage di Lockerbie. Ma appunto, voglio dire, è è veramente una follia. Dobbiamo riconoscere due cose, cioè uno che Gheddafi non aveva tutti i torti quando appunto parlava del bombardamento che aveva subito, che rispondeva sicuramente a una necessità degli Stati Uniti, ma che comunque era un atto efferrato che oltretutto si accaniva con le popolazioni civili, insomma, libiche, quindi quella è una pagina su cui può avere qualche ragione. Così come non mi spaventerei, come l'ascoltatore precedente, per la sua, diciamo, per il suo ingresso nella Roma, è già entrato nella Fiat, insomma, voglio dire, negli anni 70 con una quota azionaria molto significativa, quindi non è quello che ci può, sì, far preoccupare. Sì, è un buon investitore. Sì, appunto, no, il problema a è buon investitore, poche parole. Infatti, il problema è che occorre creare una soglia simbolica oltre la quale non si può andare con i dittatori, cioè con i dittatori è inevitabile trattare, inutile negarlo, però bisogna creare delle soglie simboliche. La soglia simbolica con Gheddafi è stata superata e quindi è questo, credo, che ponga il problema. Quindi quanto non c'è, mi domando, lo chiedo a Di Michele, quanto c'è di Roma in questa faccenda? Cioè, voglio dire, Gheddafi è stato pure a Parigi, però non sembrava così variopinta la compagnia. La tenda l'ha messa lì, l'ha messa credo agli Champs-Élysées, non so dove, cioè, però era tutto un pochino più, c'è un po' più un senso protocollare. Roma si sfascia, Roma, subito Roma, sì. Si sbraca subito, cede, sì, subito. Si è aperta la stagione estiva prima di andare verso Capalbio, verso le spiagge, c'è quest'ultima c'è questa apertura di stagione con qualcosa che non si vede di solito, perché a Roma è piena di ospiti, di capi stranieri, di... però uno come Gheddafi era un sacco di anni, l'ultimo dittatore, ma era veramente una scartina rispetto a Gheddafi, era quel Mugabe che nessuno l'ha voluto vedere, che è arrivato con un po' di, sì, moglie, però era... non gliene importava niente a nessuno ed è stato... Invece Gheddafi, secondo me, anch'io sono leggermente tifoso della Roma, ma un Gheddafi nella Roma, padrone della Roma, diventerebbe l'icona della curva sud. Certo. Il Gheddafi allo stadio sarebbe, come dire, una consolazione, ecco, ci manca solo lui, sì, diciamo, certo, ma figurerebbe bene in curva Gheddafi, sarebbe qualcosa di assolutamente pazzesco in tutto ciò, ma d'altra parte bisogna guardare tutto questo con realismo, con quel anche noi, non è solo Gheddafi, con quel cappello e con quei capelli già si vedono gli striscioni in curva, sì, non c'è dubbio. Bene, Elefante Gheddafi, Elefante, gli ospiti Gheddafi. Beh, non voglio mettere in imbarazzo Stefania Craxi, che è sottosegretario degli Esteri, però due domande le devo fare sia a lei che agli altri ospiti, a Di Michele e a Veneziani. La prima è: non ha esagerato Giulio Andreotti nel consacrare il discorso di Gheddafi in Senato come un grande, nobile discorso politico? Ce ne sono d'accordo. Non c'è un eccesso in questo. E la seconda è: la seconda domanda è questa, ma gli americani pare abbiano rimproverato alla diplomazia italiana il fatto di avere fatto di questa visita una visita troppo lunga, perché qualunque cosa può succedere, ma se un capo di Stato viene, diciamo, perché le cose si concordano prima, dice no, guarda, vieni, siamo felici, facciamo affari, eccetera, ti mettiamo la tenda, però diciamo vieni a mezzogiorno e la sera dopo alle 18 sei via. Ma è una settimana che Gheddafi è il re di Roma, non è troppo? Sì, sono d'accordo. Innanzitutto perché gli andavano, come dire, con chiarezza, con fermezza, richieste un linguaggio di verità, e questo non è stato fatto. Questo per quanto riguarda lo stesso Andreotti. L'altra cosa, indubbiamente, se la politica non riprende la sua dignità, finisce che nulla viene gestito, neanche le visite di Stato. Detto questo, mi vorrei però chiudere su una piccola cosa. Anche il brutto episodio del Senato, purtroppo, è stato un ennesimo episodio di lotta interna al PD che ha investito la sfera internazionale. Bene. Anche questo significa che se i sentimenti nazionali prevalessero sulle lotte interne sarebbe molto meglio. Quindi c'è un problema generale della gestione politica anche di questi rapporti, che riguarda la maggioranza ma che riguarda anche l'opposizione. Prima la Luisa Todini, prima di lasciarci, ha detto: ma io poi sono una generazione degli anni 60, manco me le ricordo queste cose, Monaco, eccetera. È vero questo, eh? Cioè che quei dittatori che sopravvivono a lungo, come la storia di Che Guevara era un guerrigliero, insomma, un uomo che predicava il dovere di fare la rivoluzione con mezzi violenti. Poi, nelle generazioni successive, il manifesto di Che Guevara, la famosa foto, dice: diventato San Francesco, sono tutte cose diverse. E così anche questi adesso, secondo me, per molti giovani che vedono questo Gheddafi che arriva, gli viene in mente andiamo in Libia, visitiamola, gli viene solo curiosità. Perché, Per quello che vanno, come dire, ristabilite la verità della storia in tutti i suoi aspetti, e va ricordato anche i giovani. Io non sono d'accordo con Luisa che dice io mi devo occupare del presente e del futuro. Sì, tutti ci dobbiamo occupare del presente, futuro, ma guai a dimenticare la memoria del passato. Bene, grazie, grazie a Stefania Craxi. Sentiamo su questo Marcello Veneziani. La memoria di ciò che è stato, anche la storia recente, che per noi cinquantenni, cinquantacinquenni, è una cosa seria, perché insomma Lockerbie ce lo ricordiamo, la strage di Fiumicino ce la ricordiamo, Monaco, io avevo 20 anni, insomma è uno dei grandi traumi della mia giovinezza, insomma Monaco fu pazzesco, no? Fino a come si chiama, l'aeroporto di Francoforte, certo. L'elicottero, i morti, ecco, forse svanisce, no? Forse non c'è una, boh, non so, non la teniamo nelle nostre mani, nelle nostre teste, nei nostri cuori, eppure è una memoria importante. Certo, un conto è raffreddare la memoria ed è anche un atto, come dire, di saggezza col passare del tempo, un'altra cosa è cancellarla. Cioè io credo che noi non possiamo cancellare dalla memoria, da una parte, questi crimini che hai citato, che sono giustissimamente evocati, e dall'altra parte anche un po' le nostre responsabilità. Aldo Moro, la sua politica di apertura alla Libia in un momento in cui la Libia ci aveva ferito, Andreotti che è stato un po' nel governo italiano il cammello di Troia di Gheddafi, insomma, nel senso che appunto ha spesso, diciamo, lavorato in una infunzione filo Gheddafi. Io credo che a questo punto, al di là del problema simbolico che ponevo, ci sia anche un problema pratico. Noi ora abbiamo dato a lui un grandissimo stanziamento e sarebbe giusto aspettarsi che Gheddafi possa stornare, diciamo, un 8 per 1000 da quella grande cifra per risarcire gli italiani. Anche questo ha un valore non solo simbolico, ma un valore di dignità nazionale. Cioè non si possono buttare fuori 20.000 persone che in Libia non credo che stessero come occupanti e colonizzatori, erano imprenditori, gente che lavorava e faceva lavorare, che ha dato ricchezza al paese. Ecco, credo che anche quello sia un aspetto un po' da rievocare in questo momento, e se vogliamo, diciamo, non fermarci soltanto al dato simbolico di non far accedere Gheddafi all'università e al Senato, io credo che una istanza di questo genere potrebbe essere recuperata in questi giorni di lunga permanenza a Roma di Gheddafi e possa essere riproposta, insomma credo che sia una ragionevole richiesta, credo, no? Di Michele, di questo lei cosa pensa, di questo fatto della memoria? Lei anche se le ricorda, no? Le stragi di Gheddafi, diciamo. Sì, sì, sì. Il Gheddafi cattivo, il periodo del Gheddafi cattivo c'è stato. In Italia mai in maniera particolare comunque, perché Andreotti non è che oggi dica una cosa diversa da quella che la politica... È vero, basti dire che il colonnello Giovannone del SISD... Quello a Beirut, sì. Beh, ma infatti... No, gli riportò i terroristi lì... Sì. Beh, anche, di Stato. Anche l'Achille Lauro. L'Achille... E quindi la cosa paradossale è che adesso è toccata questa, diciamo, questo evento lungo, sterminato, sembra il Festival di Sanremo, non finisce mai questa cosa di Gheddafi. Che poi abbiamo tutta la settimana Gheddafi, riparte Gheddafi, comincia il Gay Pride domani. Sì, è stata tutta una settimana molto colorata, sì, molto pop è stata. Questa cosa qui, e questa cosa della memoria, è vero che con i tempi lunghi i dittatori ci sono, no? Sono Gheddafi, nessuno sa come si deposita, no? Come, storia, è come, no? Fidel Castro, le bandiere cubane, Che Guevara ormai è un eroe hollywoodiano, anche la rivista dei gesuiti ne ha parlato bene. Tutti. E quindi sono queste cose che solo poi nella memoria si stanno. Ho parlato male di Che Guevara e mal me ne incolse. E Giorgio Amendola. Ah sì, è vero. Giorgio Amendola. No, il fatto è che proprio si depositano nella storia. Devo dire, da questo punto di vista abbiamo fatto sto titolo al foglio Gheddafi Fidel Castro 3-0, perché Fidel Castro ha avuto delle vabbè, un altro fenomeno naturalmente, voglio dire, non voglio essere banale, non voglio mettere tutto sullo stesso piano, però esprime altri valori, un altro contesto, eccetera, e c'è molta gente che ha fatto anche un investimento emotivo sul socialismo allegro cubano, socialismo con la samba, però voglio dire, adesso da un punto di vista puramente semantico, come interpretazione dei significati più esteriori, insomma, ha perso la sua battaglia con Gheddafi, che sono i due più longevi, no? Beh, certo, poi Fidel Castro sono anni che va in giro con la tutina, con il malato, c'ha Chavez che gli tiene la mano al letto, insomma, cioè, questa cosa un po'. Invece, no? Questo è un mostro di. Questo scende di con quei capelli al vento. Ma l'anello d'oro che dice che l'ha regalato a Berlusconi. È una cosa pazzesca, speriamo che non lo indossi. Presidente, mi ascolti, non indossi mai quell'anello d'oro, mi raccomando, Lo faccia mettere lì, in quella stanza dove si mettono i regali sarà, dei capi di Stato. Sarà un pegno di fidanzamento. Beh, l'anello d'oro è fantastico. Sei il leone che rugge verso il cielo. Dice che Berlusconi gli ha regalato una cosa d'argento a nome dell'Italia e lui si è sfilato questo anello e gliel'ha dato. Quello è anche un modo singolare di... Pazzesco. Vabbè, abbiamo discusso tra il serio, che era dovuto, e il... come si può dire, l'iconologia che era anche dovuta, la visita di Gheddafi a Roma, e io ringrazio i nostri ospiti, la Todini e Silvestri, che ci hanno lasciato qualche minuto fa, Marcello Veneziani, grazie, Stefano Di Michele e Stefania Craxi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A lunedì, baci.